Camarignas fu una sede della primitiva chiesa irlandese celta. Il santuario mariano di Muxía, oggi collegato alla via Giacobea, nacque sopra un luogo di culto alle pietre benefattrici e agli elementi, acque soprannaturali dalle quali giungono barche dall'ultramondo e un vero santuario naturale di origine neolitica con leggende e tradizioni celtiche. A Muxía si celebra l'eco delle Vergini Nere, la Madre Terra, le Dame Celtiche e le Banshees irlandesi. Il magnifico tempio-monastero di San Julián de Moraime a Muxía irradia forza tellurica come tutti i luoghi che appartengono ora al Cammino Giacobeo. I suoi capitelli mostrano volti umani tra il fogliame. È l'immagine degli uomini verdi di tradizione celtica che si trovano anche a Santiago de Cereixo e nel tempio scozzese di Rosslyn. I racconti e le cantate che riguardano questo luogo conservano ancora molte parole dell'antico idioma, il barajete, che discende dall'euskera basco. Nel lato sinistro, il capitello esterno rappresenta due figure e un albero della vita che ospita una donna. Siamo alla porta occidentale che conduce all'isola delle Mele, al paradiso occidentale, all'ingresso delle fantastiche isole celtiche degli immortali, prima della tentazione di Adamo ed Eva e della espulsione dal paradiso. Nel timpano della porta sud vi è l'ultima cena con sette personaggi della stessa misura e alla destra del Salvatore uno strano personaggio più piccolo degli altri, detto El Neno, il bambino. La versione ufficiale è che El Neno sia il simbolo del discepolo che vede il paradiso grazie al maestro. La mano che benedice la cena è una conchiglia tagliata in foggia di mano con cinque dita, simbolo della proporzione aurea dell'opera divina utilizzata dai maestri costruttori. In una delle due nicchie su cui poggia il timpano vi è l'immagine di un maestro che tiene in mano un libro, La scienza rivelata. La scena è molto singolare e potrebbe rappresentare i vecchi scritti scartati dalla chiesa ufficiale, ossia la mano degli iniziati. La porta fu tenuta nascosta fino al 1975. Cosa voleva dire il maestro basco che realizzò la scultura delle sette figure più una? Può essere collegata al calendario astrale? Nella Kabbalah l'otto corrisponde all'ottavo Sefirah, la gloria, e al numero Et, la supremazia delle esperienze e l'intelletto. È il quadrato di 64, un numero relazionato con la Vergine Nera, la Madre Terra. Nel tempietto solare di Noia, la facciata occidentale riporta un arco con figure di uccelli e animali reali e fantastici che ricordano una stilizzazione dell'antico zodiaco egizio come quello contenuto nel tempio di Dendera, in Egitto. Nel IV secolo la Galizia aveva un rapporto diretto con l'Egitto di Alessandria, degli gnostici e della chiesa primitiva espulsa da Gerusalemme. In Albarin vi è una croce molto popolare che segna l'incrocio di un cammino ed è a forma di Ankh, la croce egizia, simbolo della vita, usata anche sia dai copti che dalla chiesa primitiva cristiana di Alessandria d'Egitto, maestra della chiesa primitiva galaica. La barca è anche immagine della luna che si cambia in serpente e scende sulla terra. Barca serpente a forma di mezzaluna è anche un simbolo egizio molto usato nelle tombe. È la barca di Osiride che traghetta i morti all'inframondo. Padrona di magici poteri. Questa luna barca è rappresentata nella porta principale del tempio di Moraime che rappresenta la testa spirituale della Costa da Morte. Da questi luoghi passò anche il culto solare di Mitra, attraverso le legioni romane, quello ariano di Agni, divinità solare, e il greco Efesto. È a queste fonti che si abbevera il mito di Santiago. Il simbolo protettore dell'ultima cena è quello dei gemelli zodiacali, il quinto sefirà della Kabbalah, come vedremo. Torniamo all'ultima cena e alla figura del presunto Giovanni o El Neno. Cristo è al centro, ma la chiave della composizione è un angelo, come a Cereixo. I commensali hanno cappe, mantelli, come cavalieri, come membri di un ordine. Ricordano i templari. La famiglia dei Traba, padrini di Moraime, pure era legata ai templari. I templari custodivano un loro cammino unico al Finistère dalla Francia. Si diceva che avessero il Graal, che conoscessero il lignaggio di Gesù e che avessero scoperto il nuovo mondo prima di Colombo. Cristo benedice con la mano al di sopra della piccola, ridicola supposta testa di Giovanni, ma questo Giovanni, o Neno, il bambino, entra in gioco molte volte nei templi del Finister gallego. E qui arrivano anche i testi dei cristiani perseguitati, i catari. L'archivolto inferiore della porta occidentale di Moraime include un personaggio che rompe l'estetica. Un altro Neno, un altro bambino, questa volta scuro. Un bambino tra 54 uomini, gli anziani dell'Apocalisse. La barca che trasporta Santiago si converte nel serpente che imbarca i milioni di defunti che hanno passato il giudizio di Osiride in viaggio dall'est all'ovest verso gli inframondi del Duat egizio. Uno dei Vangeli gnostici, il libro segreto di Giovanni, denuncia il Dio dell'Antico Testamento per aver tentato di occultare la verità all'umanità e sostiene che Adamo ed Eva ricevettero lo Spirito divino dal Dio vero. Gli gnostici credevano in un principio supremo di bontà, una mente divina. L'essere umano possiede qualcosa di questo potere divino al suo interno, però ne resta diviso dal mondo materiale che lo circonda. Il mondo materiale, secondo gli gnostici, è opera di una mente inferiore, non del Dio supremo. Con la guida di un maestro come Gesù, l'uomo potrebbe interiorizzare il messaggio ed essere tanto divino quanto Dio stesso. La grande opera cercava di avvicinare il cercatore al divino e consentiva di ottenere la salvezza risvegliando l'essenza divina nello spirito umano. Il messaggio gnostico scese sulla terra di Moraime, nel sud cataro della Francia e nella terra basca tra Navarra e Aragona. Il maestro realizzatore della porta sud di Moraime proviene da una zona impregnata di eresia catara. Era un basco navarreno, erede dei maestri della Francia meridionale. La porta nord di Compostela fu distrutta, la porta sud di Moraime occultata. Perché? La porta del Tempio di Moraime fu costruita dai maestri al servizio dei Templari. In termini alchemici ed esoterici risalenti all'antico Egitto, la dea Hathor è la dea vacca che alimenta il successore del faraone ed è detta la signora dell'Ovest. Il faraone, dopo aver attraversato l'inframondi sulla barca di Osiride, si sottopone alla pesatura del cuore. Il suo cuore viene posto da Anubi su una bilancia e come contrappeso viene messa la piuma di Maat, la giustizia. La barca che trasporta il faraone all'eternità, a ponente, è la barca di Tereisho, che trasporta il corpo smembrato dell'apostolo Giacomo, seguendo il cammino delle stelle, Compostela, Campus Stelle. Questo Neno bambino incastrato nell'ultima cena di Moraime sembra l'immagine di un quadro di famiglia della 22esima dinastia faraonica, quella di un piccolo Osiride dorato a fianco di Iside e Horus, la trinità divina. Lungo il cammino giunsero i catari e i templari quando iniziò la loro persecuzione. Il cammino di Compostela è un cammino di speranza materiale e spirituale, un incrocio di nuovi orizzonti. Continuando le relazioni con l'antico Egitto, tra i santuari di Muscia e Finisterre si percepisce la stessa relazione di interdipendenza che c'è in Egitto tra Edfu e Dendera. Il tempio di Edfu dedicato a Horus e quello di Dendera dedicato a Hathor venivano visitati uno dopo l'altro simultaneamente dai pellegrini che li raggiungevano per via fluviale. Così pure, camminanti di Compostela dovevano terminare il pellegrinaggio visitando tanto Moscia quanto Finisterre. Più si studiano la millenaria cultura del Nilo e l'antropologia gallega e più se ne scoprono le similitudini. Il viaggio al Lamenti egizio è il cammino di Finisterre nel bosco sacro celta. Per gli abitanti dell'antico Egitto il Nilo era specchio della Via Lattea e si sviluppava in un pellegrinaggio in 22 tappe. I Celti chiamavano la Via Lattea Catena di Lug. Roma attinse molto alla tradizione egizia e l'immagine di Iside col bimbo Horus in braccio prefigura quella della Vergine Maria col bimbo Gesù. Nella tradizione egizia, come in quella celtica, i fedeli si riuniscono attorno a un sacerdote vestito di bianco per celebrare il rito dell'acqua sacra. Le fonti venivano chiuse in santuari creati in pietra e a forma di tempietto dove si onorava Venere, Iside, la Madre Terra, le divinità locali dell'acqua e tutti gli aspetti della divina energia femminile. È possibile che la conchiglia servisse originariamente come simbolo di quell'altro cammino, quello pagano che giungeva al mare e tornava. La conchiglia è un simbolo sacro della Costa da Morte da molto prima della nascita del mito giacobeo, poiché vi sono conchiglie in bronzo che risalgono all'epoca romana. Finisterre e Muscia sono le due punte unite alla fine del cammino giacobeo, santuari mariani dove sono presenti le mani di cluniacensi e templari. Ancora oggi la grande festa della Vergine della Barca di Muscia non si celebra nella chiesa parrocchiale, ma nel santuario da barca, che è sempre stato più un tempio pagano. Il cammino segnato dalla conchiglia era un cammino pagano, dove si adoravano le divinità femminili, ipostasi di Madre Terra. Moraime era la porta di entrata del più in là, nel cuore del remoto Nemancos, il selvaggio paese dei boschi sacri, il finale del cammino misterico della Via Lattea. A Moraime concernevano sia Finisterre che Muscia e furono i suoi uomini che crearono la leggenda del cammino medievale, i templari della casa dei Traba, signori di queste terre. Il segreto meglio conservato di questo monastero sta nelle sue rovine. Una vergine nera, una divinità dell'acqua, un luogo misterico che i romani adattarono ai loro dei. Bisognava approfittarne per assestare il colpo definitivo al paganesimo della regione indomita. Bisognava prendere il cammino e riconvertirlo. Il simbolo segreto è la spirale e la conchiglia, simbolo della terra della famiglia Traba. Finisterre era la culla del sole e Muscia Moraime della luna. Nel tempietto solare di Noia, il libro scolpito è simbolo lunare. Libro aperto, luna piena. Libro chiuso, luna nuova. Cartella dritta, luna crescente. Cartella inclinata, luna calante. E ci parla anche del quadrilatero solstiziale equinoziale. Qui la parte interessante non è tanto sapere dove sale il sole nell'anno in una certa data, ma dove scende. E siccome non si posa sempre nello stesso punto, è stato creato un calendario misto solare-lunare attraverso questi libri perfettamente collocati nella porta del crepuscolo. Questo era un luogo di culto ancestrale, neolitico, poi celta e romano, e fu da qui che partì l'evangelizzazione delle tribù più celtiche di Galizia, quelle collegate coi Galli e coi lontani e biblici Galati del Mar Nero. I Celti Neri conservarono molti dei loro luoghi di culto nella regione, però passati al setaccio cattolico romano. Essi sono i guardiani dell'essenza più pura del celtismo, la base ancestrale e biologica. Qui, meglio che in altri luoghi, c'erano le premesse per cristianizzare, non distruggendo i templi, bensì gli idoli e innestando al loro posto il Dio vero e il culto delle sacre reliquie. Se il popolo non avesse visto deturpati i suoi templi, avrebbe potuto di buon grado riconoscere il proprio errore, tra virgolette, e venerare il Dio vero, tra virgolette, sostituendo ai riti pagani quegli stessi riti ma cattolicizzati. Proprio come i Celti, anche i Vandali e gli Svevi seguirono una via ancestrale, attraversando la Gallia e il nord della Spagna in cerca di una terra promessa a Occidente. Il paradiso dell'Ovest, il cammino del sole lungo la Via Lattea. Al loro arrivo in Galizia, constatarono che esisteva una cultura indigena vicino alle loro stesse tradizioni. I Visigoti giunsero da terre vicine a quelle dei Galati, che sono di radice celtica come quelli occidentali, pertanto avevano leggende che fin dalla notte dei tempi parlavano di un paradiso occidentale alla fine di un pellegrinaggio. La religione ariana, predicata da Ario di Alessandria nel III secolo d.C., sosteneva che Gesù non era di natura divina. Gesù non poteva essere Dio perché era un uomo, diceva Ario. Poteva essere divenuto divino attraverso le sue azioni, non per sua natura. Ario fu condannato per eresia. Il messaggio gnostico di Ario e dei suoi seguaci sosteneva che Gesù era un uomo venuto a illuminarci il sentiero verso Dio. Gli gnostici apprezzavano la natura e le scienze naturali. Le loro opere sono pregne di influenze indù, persiane e dell'antica religione ebraica. Nei Vangeli gnostici Si pone in dubbio la resurrezione di Gesù nel senso letterale del termine e si segue una tradizione segreta, misterica, degli insegnamenti del Maestro Gesù. Si crede che i Templari conoscessero i testi gnostici occulti quando presero in consegna la custodia dei sacri luoghi di Gerusalemme e del Graal. La dottrina gnostica beve alla stessa fonte di quelle comunità dove nacque la più antica tradizione cristiana, come quella degli Esseni di Qumran e dei Nazirei, l'antica chiesa di Gerusalemme, la cui testa invisibile ed erede di Cristo fu Santiago, Giacomo il Minore, non Paolo. Gli gnostici credevano in un principio supremo di bontà, in una mente divina, oltre l'universo fisico. L'uomo rimane isolato dalla divinità a causa della illusorietà del mondo materiale che lo circonda. Questo mondo difettoso, secondo gli gnostici, come abbiamo detto, è opera di un creatore inferiore, non del Dio supremo. L'uomo deve risvegliare il principio divino sopito nella sua umanità e per fare questo ha bisogno di un maestro. I pitagorici sostenevano che per risvegliare tale sapere, gli uomini, i camminanti, dovevano seguire il cammino della Via Lattea per entrare negli inframondi. Questo è il messaggio ufficiale del Tempio di Moraime sul cammino di Compostela, con quell'Agnus Dei nel reverso del timpano dell'ultima cena. Coloro che stavano all'interno del tempio lo percepivano, ma rimanevano col dubbio di ciò che si celava nell'altra faccia del timpano, perché la porta sud rimase chiusa e occultata per molti secoli, fin dal Medioevo, probabilmente. In molte pitture abbiamo visto i roghi dei libri eretici catari, ariani e altri, ma la pietra non può bruciare, quindi si chiude, si occulta. All'inizio dei pellegrinaggi giacobei, l'Europa assisteva alla grande guerra contro l'eresia catara, di cui il sud della Francia ospitò nutrite comunità fino al secolo XIV. I catari non praticavano il battesimo nell'acqua, si astenevano dalla carne e tradussero i Vangeli in lingua volgare. Non credevano nell'Eucarestia, rifiutavano il culto delle immagini e la gerarchia cattolica, seguivano l'ideale di vita degli apostoli, delle origini e non credevano nel giudizio finale. La mano gnostica e pitagorica era presente in alcune comunità, credevano in un principio dualista, il bene e il male contrapposti, di stampo zoroastriano. Lungo il cammino, e insieme ai canti dei trovatori occitani, giunsero queste idee fino alla regione più occidentale della Galizia. Un Vangelo apocrifo, la cena segreta o Interrogatio Ioannis, veniva tenuto in gran conto dai catari francesi e italiani, lo chiamavano il segreto. In questo libro, Giovanni interroga Gesù durante una cena segreta, appunto, riguardo a Satana, alla caduta, alla creazione dell'uomo, al peccato di Adamo ed Eva, al regno di Satana sulla terra e per ultimo riguardo al giudizio finale e al castigo del maligno. Essi credevano che tranne Dio e Gesù tutto fosse stato corrotto dal male contenuto nella materia e che pertanto tutto fosse da purificare e da salvare. In nessun tempio di Galizia e sicuramente in nessuno del cammino spagnolo si riscontra un tal numero di coincidenze coi testi eretici catari. Parola dopo parola, i maestri scultori baschi convertirono il Vangelo in pietra e tutta la filosofia catara è presente nelle due porte del Tempio di Moraime, alla fine della terra, l'asse centrale del Finisterre. Realizzate dai maestri baschi di influenza catara che lasciarono il messaggio inciso nella pietra all'inizio della mattanza papale, ovvero la crociata degli Albigesi. Un cataro sarebbe affascinato nel vedere il suo Vangelo scolpito nella pietra del centro tellurico della Costa da Morte, tra il Tempio del Sole e della Stella Venere, il maggior santuario della fine del cammino, molto vicino a una croce catara medievale innalzata sopra un bosco sacro celta, al bordo del cammino a Finisterre, quella di Berdeogast d'Umbria. Non si può non pensare all'ultima cena di Leonardo da Vinci, il grande artista italiano vicino alla tradizione catara. I vichinghi giunsero in Galizia e ci si fermarono per un certo tempo, convinti che il paradiso fosse qui di fronte al Finisterre e che ci si arrivasse con un viaggio meraviglioso su una barca sacra. La barca dei naviganti nel tempio di Serratio, che parla un antico linguaggio ancestrale di barche sacre. La porta è a sud, è sempre chiusa, ma non è occultata. Sulla barca navigano 7 personaggi più un corpo sdraiato, di cui non si vede la testa. 7, come i commensali di Moraime più la testa del Neno. A Moraime la porta sud è dedicata ai 12 simboli dello zodiaco e quella occidentale contiene il triangolo magico, l'occhio di Dio, un triangolo equilatero perfetto. Ma c'è di più. La corona boreale con le sue 5 stelle visibili in cielo è rappresentata sulla porta sud di Sereisho, creata dallo scultore cataro della porta gemella di Moraime. Nel gruppo centrale vi sono 3 figure attive, di cui una centrale con il bastone e le altre 2 che sostengono un corpo sul lenzuolo. Una linea che unisca le 4 teste e i piedi della figura stesa ricrea la posizione delle 5 stelle della corona boreale. Resti materiali, archeologia, genetica, leggende e tradizioni si uniscono per creare un legame tra i popoli dell'est europeo e dell'attuale Russia col Finisterre di Galizia. Dalle regioni del Mar Nero, patria dei Galati, partì 8.000 anni fa una corrente migratoria che non si fermò lungo il cammino che oggi coincide con quello giacobeo. Poco sopra al 42° parallelo, affacciata sul Mar Nero in Valacchia, la città di Varna, collegata al mito di Vlad Draculia che non poteva guardare il sole. I ricercatori confermano l'esistenza di una primitiva nazione celta ai margini del Mar Nero, la regione dei biblici Galati, nazione che realizzò la rotta ancestrale del grande viaggio lungo il percorso della Via Lattea verso il Finisterre occidentale. I Celti iberici sono i più antichi d'Europa perché discendono da quel ceppo primitivo di camminanti galati. Compostela, il cammino che costruì l'Europa. Santiago di Compostela, in questo nuovo secolo, conserva la sua attrattiva come gran centro di pellegrinaggio. La camminante che si avvicina oggi alla città lo fa per molti motivi, non solo religiosi. Il mondo odierno è differente e differenti le sue caratteristiche, pur tuttavia migliaia di camminanti continuano a percorrere questo cammino come grande itinerario europeo. Come sorprende l'origine dello stesso e del mito giacobeo, la leggenda che diede origine alla strada, il trasferimento dei resti dell'apostolo Giacomo in Galizia. Compostela continua ad essere innanzitutto un santuario cattolico, dove giungono i camminanti a visitare la tomba dell'Apostolo e la magnifica cattedrale. Camminanti che si avvicinano anche al mare, come i pellegrini che li precedettero. Eppure, solamente un secolo fa, il cammino era morto e fu l'opera di un cardinale locale in un nuovo ciclo storico che lo tolse dal letargo con la riscoperta delle ossa di un apostolo singolare. La maggior parte di ciò che crediamo di sapere sul mito giacobeo è leggenda, colorita nei secoli, la cui base risale all'epoca del gran arcivescovo Gelmírez. Ma il valore di Santiago e della sua strada viene conferito da una serie di circostanze. In primo luogo dal nome dell'apostolo, sul quale si costruiscono i racconti, un nome nel quale si assommano biografie di vari omonimi, un nome che fu la testa visibile della Chiesa dopo la morte di Cristo e che giocherà un ruolo singolare per i primi cristiani. Possiamo mettere in dubbio che gli attuali resti ossei siano quelli di un apostolo vicino a Cristo, tanto vicino che ai suoi tempi lo consideravano come fratello e gemello. Una eventuale analisi non chiarisce probabilmente nulla, ma se anche questi resti si perdono in una data lontana, tuttavia per la fede non perde valore la tomba come cenotafio, come luogo che in qualche momento ospitò un corpo santo. Se parliamo di reliquie e di religione, nulla nasconde la sua probabile attuale mancanza a causa delle vicissitudini della nostra storia accidentata e questa stabilì che il centro del pellegrinaggio è una cattedrale di culto cattolico e sotto questi parametri dobbiamo intendere il fenomeno, non bisogna perdere questa prospettiva. Possiamo dubitare di leggende fantastiche che nascono da un'altra epoca e da un altro modo di intendere il mondo, creazioni della e per la gente che capiva le cose descritte in questo modo, poiché così avevano raccontato loro altre leggende e miti fin dalla notte dei tempi, ma Santiago ospitò alcune reliquie molto antiche con una grande tradizione, giunta dalle origini del cristianesimo ispanico. Gli uomini galaici, abitanti dell'antica Galizia, di fede, ebbero un collegamento diretto con la Terra Santa fin dagli inizi. All'apostolo si arrese l'antico culto della nostra terra e le necessità religiose in un ambiente ostile fecero il resto. Sicuramente i camminanti cavalcavano i cammini precristiani diretti a una terra mitica, ad alcune delle culle dei primi europei. Questa è la forza di Santiago, una tradizione radicata nelle origini, un nome irrilevante, stella di attrazione per popoli disparati e strada che termina ai confini del mondo conosciuto. Nulla si costruisce dal nulla, al contrario, cammino e meta stavano già lì. Frugando nelle viscere della storia, incontriamo una terra, la Galizia, il Finisterre occidentale, che era già conosciuta dagli altri popoli secoli prima del cristianesimo. Da millenni camminanti giungono a questa terra e sopra questo cammino ancestrale si costruì il cammino giacobeo. Indoeuropei, Celti, Svevi, Templari, artisti speciali marcarono la loro via verso il paradiso occidentale e noi proseguiamo sui loro passi. Per questo parliamo di un ritorno alle origini e all'identità dell'Europa. Per questo pensiamo che Compostela fosse il grande santuario di pellegrinaggio europeo più di Roma o Gerusalemme. A causa di circostanze politiche, guerre, litigi che rendevano meno attraenti gli altri due cammini rivali. Per questo la grandezza del cammino di Compostela continua ad esistere, un cammino che occulta segreti, strade antiche che camminanti singolari continuarono ad usare, segnalati con templi e costruzioni fino ai nostri giorni. Cerchiamo questi segni di identità e questa strada nascosta sotto i cammini fissati con l'organizzazione di leggende, culti e cammini ufficiali, tra virgolette. Cerchiamo tutti i significati e i significanti del luogo, la sua potenza e ciò che si nasconde nelle sue viscere, nei suoi miti, ma con l'amore di chi crede nella sua forza e nella sua attualità riscoperta che, si spera, senza perdere la sua identità e senso, serva a che gli europei trovino le loro radici e tutte le loro culture e affinché tutti i credi si identifichino, che tutti i camminanti con le loro vite, abitudini e credenze riscoprano la magia, l'energia speciale della visita alla grotta millenaria e la visione redentrice del mare di Finisterre. Perché il cammino è anche un itinerario culturale e un viaggio interiore per molte altre persone, una ricerca speciale dell'identità europea originaria. Calpestiamo una via già marcata, aperta da altri camminanti che ci precedettero. Entriamo in una cattedrale che è anche un sito storico e artistico che ci parla degli antichi creatori con i loro messaggi di bellezza e arte per la gioia dei nostri sensi. Giungiamo al mare di Finisterre e ne usciamo trasformate. Viviamo un'esperienza di catarsi e di rinascita. Dice Gustavo Bueno che Compostela non è situata al centro, ma al bordo antico, alla fine della terra, dove terminano tutti i cammini di Ponente. In questo consiste il suo privilegio strategico e la fonte principale del suo significato simbolico. È nello stesso momento una socializzazione, una terra abituata nella mentalità popolare tanto ad accogliere tradizioni quanto all'opera propagandistica del clero o dei nobili. Compostela è stato dichiarato ai nostri tempi primo itinerario culturale europeo, ossia colonna vertebrale culturale d'Europa, concetto questo che vale per credenti e non, per religiosi e laici. Quando i laici dicono cultura, i religiosi potranno intendere grazia divina e viceversa. E il cammino si presta anche ad essere analizzato scientificamente. Analizziamo gli agenti, il clero galaico, la nobiltà asturiana, osserviamo le loro relazioni familiari e comprendiamo come la leggenda si fabbricò in un luogo concreto e in un ambiente concreto. Questa cornice ci aiuterà a comprendere. L'inno di San Beato dell'Iebana, una delle basi del mito giacobeo, non è solo religioso, è profondamente politico, contiene elementi politici di prim'ordine. Beato dell'Iebana era un monaco molto influente alla corte del re cattolico di Asturie e Galizia, Alfonso II. Scrisse un commentario all'Apocalisse e un inno nel quale disse che Santiago Giacomo è l'evangelizzatore e il patrono di Spagna. Morì nel 798 d.C. e anni dopo Alfonso II casualmente, tra virgolette, scoprì la tomba dell'apostolo in Compostela. L'inno e l'opera di Beato sono religiose e politiche collegate a Carlo Magno, al Papa di Roma e alla lotta contro l'eresia e l'invasore arabo in Spagna. Il suo grande amico è il vescovo di Toledo, capitale della Spagna occupata dagli arabi, il quale cerca invece un avvicinamento agli arabi. Beato, dunque, è il primo che parla di Santiago Giacomo come patrono di Spagna, è l'ispiratore e il creatore del mito. E il re Alfonso II usò questo mito per unire i cattolici asturiani e gallegi contro gli arabi. L'inno dice che la testa di Spagna è Santiago, patrimonio del nostro popolo. Il regno delle Asturie si trovò preparato per portare a termine un programma politico e religioso nazionale, ripristinare l'idea imperiale ispanica. Roma e San Pietro proteggono la sede di Roma, la Caba è a Cordoba, Santiago nel regno di Galizia, così era conosciuto inizialmente all'estero. Galizia contro Spagna. Il nuovo regno in un ambiente apocalittico millenarista. La fine del mondo, il giudizio finale, la venuta del regno di Dio dell'anno 800. E dall'altra parte la tradizione venduta al nemico, all'infedele, il mondo goto occupato e in combutta con l'arabo invasore. Acquista senso il concetto che sorgerà nel secolo seguente, cristianità come terra liberata, terra sacra. Questo terzo gruppo di coordinate, le idee e la ragione, per me è molto importante e per questo insisto di utilizzare sempre una base documentata. Se ci sono reliquie, si possono analizzare o no, e poi proseguire con gli altri aspetti, ma sicuramente, poiché è una trinità, i tre aspetti citati, sociale, metafisico, ideologico, devono tutti essere tenuti in considerazione. Insisto, il cammino di Santiago, come il cristianesimo primitivo, è tutto ciò che è stato influenzato dal sentimento religioso, è campo della simbologia. Possiamo parlare agli uomini e donne del nostro secolo di draghi, reliquie miracolose, apparizioni, lotte di maghi, barche di pietra che galleggiano o volano, cavalieri e pellegrini resuscitati, battaglie fantastiche e mondi di Avatar. Sì, se ne può parlare e scrivere, ma non si può spacciarli per fatti storici né questioni di fede nel secolo XXI. Non possiamo parlare di una tradizione della presenza di Santiago in Spagna prima dell'invasione araba, e questo evidenzia la necessità di creare la leggenda in relazione alle circostanze di quel momento. L'esistenza di reliquie dell'Apostolo in chiese ispaniche e galaiche favorirà l'invenzione del cammino giacobeo. Le apparizioni di comete che spaventarono i popoli europei in periodi vicini alle date scelte per il traslato della tomba ai tempi del vescovo Teodomiro di Iria Flavia nell'847 e la notizia da fonti arabe e cinesi di apparizioni, di visioni e di stelle in questo arco temporale, compreso nei dintorni di Lugo, città della Galizia. Ci parlano di un mondo e di una popolazione predisposti a credere a questa nuova versione. Una presunta, lontana tradizione parlava di un soggiorno di Giacomo in Occidente, una frase tradotta in modo maccheronico dal brutto latino galaico o cantabro alle soglie di una nuova lingua romanza o una interpretazione rivisitata di un testo o frammento manipolato da un traduttore traditore nei secoli oscuri dell'Alto Medioevo. Un apostolo oscuro, ma grande, maestro di riti e di sette, discepolo prediletto e omega simbolico. Un nome da fondatore. Un Giacomo di rocce magiche e scale stellari. Una frase come la biblica «Et occidam Jacob fratem meum» della Genesi si presta al gioco del rivolgimento semantico della trascrizione che viene sostituita da un simbolo «Jacobo, Jacob, occidente, ermano». La parola «occidam» diventa «occidam», la parola «uccidere» diventa «occidente» e i traduttori e i copisti travisano, manipolano, sbagliano e cambiano più o meno volontariamente il significato primitivo del testo.